integerrimo e importantissimo anche lui, che ha appena esposto alla San Vittorio Baudengo, che si chiama Costas Bassanos. Sì. E poi dopo sono con il super mega direttore dell'Accademia di Belle Arti di Torino, Salvo Bitonti, ah, e con la meravigliosa... Gli devi chiedere delle opere della Ale. No, non ti sbagliare col direttore di Palazzo Madama. Ah, no, scusa, lui sa scusa. Tutto e prima o poi ci risponderà. Va bene. E poi dopo sono con la meravigliosa Giada Pellicari, che è una critica e curatrice. È uno scenario meraviglioso, soprattutto immaginarti anche in braccio al tassista, però io non ti invidio. Non ti invidio perché qui al Coxo c'è una puntata super mega galattica, come... Neanche se ti dico che stiamo andando a mangiare a sbaffo da un gallerista... Vabbè, questo, non faccio questo... il nome, ma solo il cognome. No, ma... anche a Torino. Non anche ti va a Bologna. Certo. Esatto. Beh, salutiamolo. No, perché Enrico è un generoso, a lui piace dare da mangiare alla gente. Ma vediamo di portarlo al Coxo, magari rispolveriamo i buffet. Dici delle che ci porta 12 piste. Senti, ma, sì. ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Non vuoi sapere chi è il super mega galattico ospite della nostra puntata e di cosa tratta? Voglio assolutamente sapere chi è. Bravo di questa puntata. E allora ecco a te Pasquini e ai tuoi compagni di viaggio, nonché al taxista e ai nostri ascoltatori, chissà che fuga per arte non ci faccia avere qualche commento, visto che non ci sei e non li puoi leggere da Facebook. Comunque è qui con noi niente po' di meno che la super mega galattica Anna Albertarelli. Ciao a tutti. Wow. ciao ciao. Ciao ciao. Hai capito? Ma noi ci siamo già Coxati, al telefono. Ah, al telefono sempre. Ah, ok. Perché? Perché io già non ho memoria visiva, figurati la mia memoria telefonica che cosa può essere. E questa è una puntata che parla di corpo e movimento e anche corpi insieme che si muovono, quindi... Ma sai che Simone Menegoi ad Artissima ha appena fatto una gran bella mostra sul corpo? Che si muoveva? E alcuni si muovevano. Ah. Interessante. Interessante. Sì, interessante. Allora, teniamolo presente. Farò vedere il catalogo. Sì, e teniamolo anche presente per una delle possibili Coxo Mix, quando invitiamo diverse persone da diversi specifici artistici a parlare dello stesso tema. Quando lo incrocio gli chiedo di venire. Trafugalo al Coxo. Esattamente. Va bene, ma perché allora... lui è delle tue parti. Fra... Bene, ottimo, nuovo, insomma, vabbè, non so cosa dire a questo riguardo, e a parte che l'ultima pubblicità di Radio Città Fujiko delle 9 parlava di un posto a Padova, e quindi basta. Addirittura, siamo diventati così internazionali che Senti, arriviamo fino a Padova. Vuoi fare una domanda alla nostra ospite? Tipo, fagliela. Ma tu, quanti anni hai? Oddio, che domanda compromettente. Ne ho 50 comunque. Cosa tondi, davvero? Tondi? No, 51 fra una settimana. No. Che bello, quindi compiamo gli anni vicini. Ma no, io non pensavo. Perché a muovere il corpo scorpioni. E a fare quello che... Immagina che calore questa puntata. E poi abbiamo anche gli ospiti silenti. Due, uno statico, uno semovente. E anche uno, lo diciamo, Peloso, molto peloso. Ah, che bello. Cioè, infatti, salutameli tanto. Te li saluteremo. No, in realtà la mia domanda era una domanda del cazzo, perché siccome non so nulla di te, dico che cosa gli posso chiedere. Una domanda che non... No, ma io non mi imbarazzo, guarda, non ti Molto preoccupare. Bene. Anche perché Ottimo. Li porta da Dio, scusami, cioè tu non la Hai vedi, capito. Ma da domani la vedrai su www.coxospaziali.blogspot.com. Va bene? Perfetto. Allora, siete Molto arrivati bene. Al buffet? No, stiamo giusto superando il terrapieno della ferrovia in questo momento. Va bene. Siamo molto vicini. Allora, visto che si tratta di terrapieni e che quindi anche siamo in prossimità semantica con la zona da cui io ti sto chiamando, ti saluto. Anch'io, un bacio. Ti saluto sul ciao, terrapieno. Ciao. Ciao, ciao. Ecco, questo era il primo slot della trasmissione. Tu che mi chiedevi, era stato abbastanza coxico, demenziale? Sì. Ok, bene. A questo punto noi mandiamo il primo brano. Abbiamo svelato unicamente che la puntata in cui ci troviamo è tra la 156esima e la 358esima, non è ancora preciso quale sia, ma che sicuramente il super mega galattico ospite di questa puntata, unica e sola, è Anna Albertarelli e gli ospiti silenziosi. Nascondi la fantasia. una vita di fatica e polvere nella stessa valigia di vent'anni fa, che ride di te. Stai andando via, vai in frantumi un po' da cenere, niente più figli da crescere. Silenzio di abitudine, sanguina sulla divisa in ordine, ma non si vedrà. Che pezzone, eh? Wow! Salutiamo 33 ore, questo era quando vieni dal suo primo album, l'album d'esordio. E, insomma, in realtà ci ha portato attraverso in un immaginario che forse l'ho scelto un po' male per questa puntata. Però ci piace tanto, ci lo stesso, va bene, va bene. Quindi io sono qui insieme ad Anna Albertarelli, che è una coreografa, danzatrice e... e altro? Cos'altro? Mi piace la parola artista, mi piace tanto. Vero, vero, perché si può usare, no? Sì, si può usare. E allora te lo dico, dai, io, è un artista. Non è obsoleto. È un artista che i cui codici passano attraverso la danza, il video, il movimento. Ha fatto teatro danza, quando l'ho conosciuta io faceva teatro danza e poi contact improvisation e... teatro danza anche con una compagnia di diverse abilità. E poi cos'altro facevi all'epoca, che io non sapevo perché ignorantona come sempre? No dai, questo era l'epoca. Teatro fisico, all'epoca facevo questo, era già abbastanza. Poi ha continuato a far quello, ma ha trasformato in diverse articolazioni e possibilità. Ad esempio adesso stai facendo un percorso di creazione collettiva insieme a tue colleghe artiste che siano anche mamme. Esattamente, sì, mamme artiste con i propri figli e con un progetto che si chiama Fotografando l'incanto. E di questo andremo poi, però se posso permettermi, forse una costante che insieme, come dire, calamita tutte queste varie possibilità è proprio data dalla contact improvisation. Dico bene? Sì, esatto. Potremmo dire che parte un po' tutto da lì anche l'artista? Sì, parte da lì. Sì. Dai, questo non me l'aspettavo. Cioè, scuppone. Grazie. Chissà, come dopo tutti sti assi. Sì, vabbè, io se non ce li ho al coxo li metto sulla griglia, lo sfiedo, me li analizzo tutti bene, i miei ospiti. Ma allora, quindi, la Contact, tu, quando e come l'hai incontrata? Allora, io l'ho incontrata negli anni, fine anni 80, quindi esisteva ancora il muro di Berlino, a Berlino. Ma dai. Esattamente. Passati tanti anni, e sono andata lì semplicemente per trovare degli amici, e già vabbè studiavo danza, e quindi mi sono trovata a prendere delle lezioni di danza in una scuola che tuttora è famosa, si chiama Tanzfabrik. La conosco anch'io, pensa un po' quanto è famosa. E oltre ai corsi, insomma, quelli soliti di contemporaneo, ho visto, insomma, in una sala c'era questo nome, Contact Improvisation. Io non sapevo minimamente di che cosa, cioè, ho immaginato poi leggendo il nome, però mi sono buttata proprio così allo sbaraglio dentro a questa classe, e per me è stata proprio una folgorazione. Ok, quindi l'hai incontrata prima come lezione proprio? Sì, sì, sì, sì, così come mi sono trovata in questa sala dove c'erano molti ragazzi e ragazze, e era una lezione intermedio avanzata, e quindi io mi sono trovata a essere catapultata da questi visigoti, da questi ragazzoni altissimi che mi prendevano, mi facevano volare. Allora facciamo così, perché io adesso che so che cos'è, perché ci siamo conosciute proprio in questo ambito qua, sono qui che svavo tutto, mi immagino la scena, però per quelli che ci ascoltano e che magari non hanno ancora confidenza, nonostante io ci provi tanto in tanto a buttare in mezzo la questione Contact Improvisation, spieghiamo un pochino di cosa si tratta, perché è così divertente anche, non solo, per carità. Allora, partiamo dal presupposto, adesso vabbè stavo un po' facendo un po' la persona delirante, però partiamo dal presupposto che la Contact Improvisation è una tecnica di danza a tutti gli effetti. Nata intorno agli anni 70, ideata da questo coreografo statunitense, newyorkese, che si chiama, tuttora vivente, si chiama Steve Paxton. E lui era un danzatore contemporaneo di quegli anni e ha cominciato a fare una sperimentazione sulla possibilità che corpi danzanti potessero incontrarsi sotto forme di movimento diverse da quelle delle tecniche tradizionali che c'erano in quel periodo. E quindi hanno cominciato a prendere spunto dalle arti marziali, dagli sport. E la prima volta che è nata questa cosa, che è stata sperimentata questa cosa, mi sembra che lui abbia proprio coinvolto degli sportivi, ha creato un happening, forse anche in collaborazione con un altro grande della contemporaneità, però musicista. Ah, John Cage. Eccola. È bellissimo. John Cage. Bellissimo che è stato un momento, perché io ho tirato fuori questa piccola deriva al mio modo e Anna mi guardava tipo, cavolo, stai dicendo Willy? In realtà sì, lui, due giganti insieme, e da lì è stato il primo caso proprio. Sì, esatto. E quindi andare a trovare gli atleti, quindi persone che non hanno formato il corpo con i codici della danza, per andare a recuperare un movimento pieno, perché esatto, ovviamente un atleta deve avere una coscienza di sé proprio a livello di potenza corpo, oltre che formale, e creare queste possibilità. Poi la cosa si è ampliata, perché in realtà il potenziale lo andiamo a vedere anche in tanti altri corpi, in tutti i corpi possibilmente. Sì, sì, sì. Allora diciamo che in quel periodo era una sperimentazione piuttosto strong. Ci sono dei video, fra l'altro, che si possono trovare su YouTube. Magari da domani mettiamo qualche link. Si vede proprio loro che si lanciano proprio in maniera abbastanza violenta. Loro hanno sempre comunque materassi, erano comunque tutti danzatori professionisti, quindi con una buonissima padronanza del corpo, però insomma era bella tosta. Sì, poi dopo piano piano insomma si è evoluto, è cambiato, è stata inserita anche in contesti, diciamo che è stata, dunque mi sembra che intorno agli anni 90 è stata proprio definita tecnica di danza. Prima era ancora un po'. Riguardo alle definizioni, c'è questa cosa particolare che noi, chi pratica contact improvisation e poi ci si appassiona, quindi che poi capita molto spesso e facilmente di appassionarsi a questa cosa, che poi andremo anche a capire meglio il perché, viene a sapere che effettivamente non c'è, cioè Steve Paxton è ancora vivo, per fortuna, perché finché lui è vivo siamo sicuri che questa disciplina, così come lui ha inteso formarla, non verrà coperta da nessun brevetto, quindi non si potrà parlare, esatto, di tecnica contact improvisation con accademie di formazione, e in modo che gli insegnanti devono avere quel diploma. E questo perché? Qual è il vantaggio? Allora, per quello che ho capito io, il fatto che comunque all'origine, secondo poi i criteri di questi danzatori, artisti degli anni 70, era che doveva essere una danza democratica, no? E quindi questa cosa è rimasta, no? Democratica perché tutti possono praticarla, di qualsiasi sesso, di qualsiasi razza, no? E quindi per fortuna si è mantenuta questa formula, no? Che tutti, danzatori o non, insomma anche persone che non praticano la danza per professione, possono affacciarsi a questa pratica. E questo è un tema molto importante, centrale, tirato fuori la parola democratica, che ha permesso anche lo sviluppo di, proprio si può parlare di una comunità di contact improvisation che abita il mondo intero e si ritrovano poi in questi festival. Ma di questo parleremo solo dopo la rubrica delle 21:28, i 2 minuti di Lolli e poi le meravigliose pubblicità delle 9:30. E ritorniamo qui insieme ad Anna Albertarelli tra pochissimo. Ciao! Portando coccio spaziali. Hello from outer space. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Scusi, sa che ore sono? No, sono nudo. Ah sì, buongiorno, buongiorno, come va? Ho delle pendenze, ci si penserà. Entro dicembre, entro settimana, non entro, lascio passare la Befana, poi dopo entro nel mito, ma quello là è vestito, ha un tessuto ignifugo che gli brucia in testa, ma sì, è una nuova moda hip, ha un gettone della SIP, no, sono nudo, l'igiene è ben curata, l'immagine è curata, mi scusi il disordine mentale, l'avessi saputo avrei pulito, ma quello là è vestito, si porta da solo al guinzaglio, ma sì, se non mi sbaglio, è suo questo bagaglio? No, sono nudo, si vede quasi subito se sudo, per questo mi ricopro con il talco e provoco conati ai meno fortunati che devono cantare sopra un palco, li indico col dito finché non han finito, ma quello là è vestito, ricoperto da foto di se stesso nudo, stampate su carta riciclata, una risma di pensieri si affolla nella mente. Scusi, sa che ore sono? Scusi, scusi. Buongiorno, qualcuno prima d'ora le ha mai posato sul palmo della mano questo smartphone? Buongiorno, potrebbe essere suo se lei collabora. Faccia una bella firma, poi faccia una bella faccia, anzi lei faccia la faccia, che la firma la faccio io, e si ricordi di non recedere prima di un anno se vuole rivedere suo nonno. Buongiorno, ed ora mi accanisco, le faccio vedere le slides. Le faccio vedere le slides come in Arancia Meccanica, come una setta satanica. Lei pianga calde lacrime, le conserverò in una tanica. Non si asciughi con la manica. Già finito? Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coccio Spaziale. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Acquarello, ho questa canzone incollata al cervello come la limatura di ferro ad una calamita. Non riesco a pensare ad altro neanche ora che sono insardinato in un estenuante fila al mambo per vedere Duca Bianco David Bowie, e questo mi crea disagio. Cerco di distrarmi chattando con Pasquini, fare cose inutili a volte aiuta. In lontananza, all'ingresso della mostra, c'è un nero vestito di nero con scarpe nere e lucide come la sua calotta cranica perfettamente rasata, che invece di sparare laser sui biglietti dei fan per far defluire l'attesa, attende. Poi, fan, c'è uno dietro di me che candidamente ammette di non aver mai ascoltato David Bowie, ma da quando è morto ho comprato tutti gli album perché è un genio. Certamente lui non lo è. Alle mostre oramai va solo gente che non sa come passare il giorno festivo se non ci sono partite in TV o pranzi per sacramenti vari. Infrasettimanale, mai, si rischia di essere da soli e sperduti davanti a qualcosa che non si può comprendere. Meglio il festivo, per mischiarsi alla folla e poter, alla domanda com'era la mostra, rispondere c'era un sacco di gente. La quantità certifica sempre la qualità. Intanto il nero lucido ancora non dà segni di snellire la coda e io, in piedi, continuo a canticchiarmi Tochigno davanti a una scritta che recita David Bowie is here. La osservo e mi dico, beh, meglio di un dito nel culo. O no? Cox spaziale. E rieccoci tornati in diretta. Per la... Mi sono spaventata. È il Cox spaziale di Shinai, sì. Tra l'altro l'avevo sparato un po' alto perché era rimasto il volume di Zino. Allora salutiamo Zino e Riccardo Lolli per le mega galattiche rubriche che regalano ogni settimana al Coxo. E continuiamo con la nostra puntata interamente dedicata alla Contact Improvisation attraverso l'esperienza, le parole e la regia, diciamo, anche di Anna Albertarelli. Di cosa parliamo adesso? Eravamo arrivati alla questione democratica, che mi piace tanto. Ti piaceva tanto questa questione democratica. Tanto l'ospite silente ha cambiato lato, così me lo vedo. Quello peloso invece è sotto il tavolo. Sta dormendo l'ospite peloso. Allora, democrazia. Perché parliamo una tecnica di danza può essere democratica? Come? E cosa c'entra? L'abbiamo detto prima, perché può essere aperta sia a persone neofite, no, appunto, che non praticano la danza, ma insomma tutti hanno la possibilità di praticare questa bellissima esperienza corporea. Tu la conosci tantissimo, se non sbaglio c'è scritto anche la tesi di laurea ai tempi che furono, quindi amore, sì. Approfondimento in maniera seria, concreta, sì. E poi effettivamente conduci, cioè tieni lezioni, la usi anche poi per attività collaterali che sono ad esempio legate alla dance ability. Esatto, sì. Tengo laboratori con la disabilità, e con i bambini, insomma, diciamo che fa parte, è parte integrante di tutta la mia attività pedagogica e professionale. In che modo la Contact risponde a tutto quanto? È una domandona, sì. Allora vado un po' a ritroso, no? Parlo un po' non per egocentrismo, ma perché ho bisogno proprio di... Perché c'entra con l'esperienza personale, no? Con sì, l'esperienza reale. Esatto, io mi sono innamorata di questa pratica perché la prima volta che mi sono trovata appunto a lavorare in questa particolare maniera mi sono sentita a casa. Mentre studiando tutte le altre tecniche c'era qualcosa che non mi risuonava, no? C'era qualcosa che non mi faceva stare bene e quindi dal momento che mi sono sentita a casa io continuo, no, a mantenere questa condizione, no? Qualsiasi cosa faccio, no? Che ha a che fare con il contatto fisico e quindi di conseguenza anche con la relazione, il contatto umano con la gente, no? che incontro. Credo che il fulcro, no, sia un po' questo. Poi... E probabilmente questa è anche il motivo che ha dato possibilità alla creazione di questa comunità di persone attorno a tutto il mondo. Sì, penso che per il discorso della community io non frequento tantissimo perché insomma, avendo famiglia, insomma, in questi ultimi anni, insomma, faccio fatica a spostarmi, però penso che sia questa la forza, no? Insomma, per andare più a chiarire le idee in chi ci sta ascoltando e che non ha mai avuto la fortuna di incappare in questa pratica, una differenza tra le tecniche più riconosciute come danza e questa potrebbe essere il fatto che qui si danno delle micro regole che servono semplicemente per utilizzare il corpo nel modo giusto, cioè una piccola riflessione su come gestire il peso del proprio corpo, laddove invece nelle altre discipline si tendono a dare i passi, ci sono le famose posizioni dei piedi, la prima, la seconda, le forme sono tutte molto, fanno riferimento a un modello preciso. Qui invece si cerca che la forma accada per movimento spontaneo, dico bene? Sì, e in più aggiungerei allora, vederla sembrerebbe molto semplice, no? In realtà un practitioner di contact deve avere la capacità di avere un corpo molto fluido, ma allo stesso tempo anche molto forte, e contemporaneamente saper gestire appunto il contatto, il peso di un lavoro con un'altra persona a 360 gradi, no? E quindi lavorare continuamente in ciò che accade, ma anche nell'imprevedibilità, no? Di ciò che accade, perché se per un livello, diciamo, adesso, se all'inizio, no, le cose sono molto morbide, attente, poi col passare del tempo, quando si diventa più abili, la situazione diventa anche un pelino più rischiosa, ma fra virgolette, no? Perché c'è più padronanza di quello che fai, quindi c'è anche più gioco, no? E quindi diventa tutto più stimolante, quindi le forze non sono più limitate, no? Semplicemente al contatto e al rotolarsi, ma possono anche estendersi verso l'esterno, ritornare indietro con forze differenti, no? Oh. E quindi bisogna saper gestire tutte queste condizioni nello stesso istante, non è che facile. Quindi non ha nulla a che vedere con i balli di coppia in cui ci sono i passi fissi e quindi sai come gestire le traiettorie del movimento, e quindi quello che ti richiede è proprio uno stato di awareness, mi viene, di presenza. Sì, sì, esatto. Che infatti, poi io te lo chiedo anche a te, ma per me centrale rispetto alla contact è proprio la percezione dello stato presente. Condivido. Per me è proprio è questo, che infatti io lo trovo estremamente utile anche nel teatro. Per me è successo qualcosa quando l'ho scoperta la contact, mi ha dato strumenti per riuscire a capire quello che stavo facendo sul teatro, e anche poi in realtà, vabbè, ma questo magari le confidenze ce le facciamo negli ultimi 5 minuti. No, ma nel senso che è talmente ampia, no, la possibilità di questa pratica, che appunto può spaziare dall'essere un ottimo strumento per i danzatori, un ottimo strumento per chi fa teatro, ma un ottimo strumento di benessere psicofisico anche per persone che non magari non sono interessati, no, alla messa in scena, ma comunque il lavoro sul contatto fisico, sulla percezione dei muscoli, della pelle, no, comunque dà beneficio. E infatti moltissime persone che si incontrano a questi festival, che di solito chi fa contact e si appassiona poi si incontra a questi appuntamenti internazionali o anche intercontinentali, dove per una settimana ci si trova, si fanno delle classi con determinati insegnanti la mattina, il pomeriggio c'è la possibilità di fare piccole danze, e la sera si fanno queste jam, che sono la stessa cosa delle jam session del jazz. Yes. Solo che sono fatte con i corpi delle persone, quindi si trovano insieme in questo stesso spazio tante persone, quella più grande che sono stata io saremo stati anche più di 100, e si balla come? Questo poi magari lo proviamo ad approfondire un po' dopo il prossimo brano, così andiamo magari a capire, andare altri dettagli pratici su come funziona questa cosa, forse anche perché si chiama contact. I'll shake it down the bill and then spend it all before the bombs will kill me. I'll save my best for last and after that don't even ask. Clap your hands. That's right. Clap your hands. Clap your hands. That's right. snatch the concrete down in the ditch and switch my place out. I'll drive to San Francisco, death to disco, take my shirt off. I'll swim to Mexico, don't tell the mermaids where I'm going. The pins, that's why the pins. Uniform and bend the floor to the early morning. I'll take a dollar bill and then spend it all before the bombs kill me. I'll save my best for last and after that don't even ask me. Rieccoci qui, stavamo parlando di gem. Eccoci qua, gem. Gem, che cosa sono le gem? Mm. Sono nel momento in cui tu sei andata al corso a quella scuola in Germania ed è nato l'amore e lì stavi studiando la base per poi andare alla gem. Alla gem, certo, infatti ci sono andata. Com'è stata la tua prima gem? Dimmi, quante eravate? Adesso non mi ricordo, eravamo stati una ventina, erano quelle che fanno un po' tutte le settimane, quindi adatto. Che tasto dolente, Anna, che mi tiri fuori. Sì. Tra l'altro mi giunge voce che a Berlino lo fanno appunto quasi tutte le sere, poi alla fine, anche in posti piccolissimi. Sì. Sì, diciamo che da sempre comunque insomma la contact a Berlino è molto praticata, o comunque all'interno di quasi tutte le scuole di danza c'è il classico, il contemporaneo, però c'è anche il contact, cioè fa parte proprio di tutto lo spettro pedagogico che si può trovare in una scuola di danza e i corsi sono frequentati. Ma si potrebbe dire che un'altra caratteristica della contact è quella che in buona parte, non solo, però ci si misura anche a scambiarsi il peso? Sì, certo, ci si misura anche a scambiarsi il peso. E per chi non lo sa, che io lo so e perciò lo dico così, ma per chi non lo sa come glielo spieghiamo? Facciamo le foto e le pubblichiamo su www.coxospaziale.blogspot.com. No, perché effettivamente la danza, uno pensa ma che bello, ma che bravi, ma questo e quell'altro. Questa danza qua è anche divertente. Certo, è divertente. La democrazia è divertente. La democrazia è sempre divertente, sì. È perché comunque al di là del fatto che ci sono delle regole, perché le regole ci sono proprio perché sennò ci si può far male, no? Come in tutto, esatto. Del resto. No, però comunque ci devono essere, sennò non... rimane comunque tantissima libertà e quindi questo crea divertimento. Ad esempio, a me è capitato molto spesso che proprio li chiamo il momento dei ragazzi, di vedere ste persone tra i 30 e i 40 anni forse anche più giovani, forse anche più vecchi, che nel mezzo della jam si ricavavano il loro spazietto nella sala e cominciavano a regredire allo stato delle elementari, e si trasformavano questi giandoni in bambini di 8 anni che facevano la lotta, e come mi ricordavo facessero i miei compagni di scuola alle medie. Sì, sì. Non alzavano la gonna però, però tipo gli spintoni, sì, i salti, sì, e il tutto ridendo come dei pazzi. E comunque si tratta di gestire la forza della spinta per fare una leva, poi rotolarsi insieme, ed è un qualcosa che veramente solo io che lo che li vedevo da fuori, cioè mi scompisciavo e mi riempivo il cuore di gioia. È bello essere vivi. Dici ok, vabbè, sono anche altri motivi per cui è bello essere vivi, però quella cosa lì e questa condivisione di gioia così semplice, così vitale, reale, non lo so come poterla definire. Sì, perché comunque vai a recuperare delle motricità, hai detto tu stessa, no? Che fanno parte poi del mondo dell'infanzia, no? Vai proprio a recuperarle in maniera spontanea, no? Spontanea, però adesso io faccio un po' la signorina Rottermeier, no? Mi piaci anche così, Anna. Io sono molto Rottermeier. Ti viene fuori il milanese proprio. Sì. No, però sì, molto probabilmente questi ragazzi che si spingevano, si sollevavano, comunque avevano una grossa padronanza, no, di quello che stavano facendo. Sì, il gioco, ma sempre con quello che dicevi tu prima, no? Comunque con presenza, no? Sì, perché poi vabbè, loro stavano giocando a fare queste cose. Poi di solito capita, e dico di solito anche se il di solito in una dinamica di improvvisazione non può esistere, però siccome è tanto bello capita che poi si formano le coppie maschio-femmina, uh-huh, e si fanno tutti i danzini, uh-huh, ci si ascolta sul peso, uno carica l'altro, lo butta per aria, lo fa girare, poi via dicendo, no? E per fare queste cose, perché capita anche che con dei giochi di leve delle persone ti rotolino sopra la testa e girano e poi le metti giù, bisogna stare molto attenti che sotto non ci siano altre persone che fanno altre cose, e quindi sviluppare una presenza del movimento, divertirsi nella gioia del momento con la presenza dello spazio condiviso che si sta curando insieme. Esatto. E questa secondo me è una qualità che gli esseri umani dovrebbero sviluppare, cioè se la contact fosse tipo la disciplina sportiva delle elementari o anche delle medie, io penso ci sarebbe meno traffico, penso che le città sarebbero più vivibili, perché sotto il portico gli spintoni non esistono, perché tu sei cosciente di te e degli altri tuoi simili. Sì. Dico bene? Sì, giusto. Democrazia, contact, rivoluzione. Ti prego, continua tu, se io fermami, se no io poi parto nel mio delirio. No, ma hai ragione, no, anche questa cosa della percezione dello spazio che ci circonda, no? Perché appunto io sto lavorando con mio partner in maniera dinamica, però non è che sono chiuso dentro alla mia danza intima, no? Soprattutto se sto agendo nello spazio in maniera piuttosto forte e dinamica, io devo sempre sentire e percepire gli altri, lo spazio. Questo è fondamentale, quindi ritorniamo di nuovo al discorso della presenza. E un'altra cosa importante è che è vero che si lavora a contatto con le altre persone, però mantenendo sempre comunque la propria autonomia, no? Perché sennò il rischio è un po' quello di sapere che tanto c'è sempre qualcuno che mi sostiene, no? Tanto c'è sempre qualcuno a cui posso aggrapparmi, no? È un meccanismo un po' fra virgolette psicologico, però è interessante vedere come io posso lasciarmi sostenere, lasciarmi accudire, lasciarmi sollevare, tutto quanto, però poi io rientro nella mia presenza, nella mia autonomia, e poi ritorno in relazione agli altri. E anche questa è una grande metafora dello stare al mondo. Esattamente. Ed in effetti, cioè, sarà strano, ma tutte ste persone che si beccano alle jam o insomma sembrano proprio belle, sane, non lo so, cioè, ma non lo so, ad esempio nei festival quando vado, vabbè, spesso io scelgo di andare all'estero, quindi sono già spaesata, e poi essendo io un pochino, sai, con gli occhioni, io tendo a vedere sempre il bello dappertutto, mi sembra di essere in mezzo al paese delle meraviglie e tutti mi sembrano meravigliosi, quasi dei santoni. No dai, scherzi a parte, comunque connesso a tra le persone che praticano questa disciplina e che poi frequentano anche le manifestazioni internazionali, i festival di una settimana, che ne abbiamo anche uno in Italia da qualche anno. cosa succede? Succede che ad esempio ci sono anche altre discipline connesse, oppure anche regole come, cioè non lo so, c'è il cibo sano, sì, certo, c'è sì. la meditazione, ci sono un sacco, c'è lo yoga, la body mind centering, insomma ce ne sono un sacco di assolutamente sì. E la percentuale di danzatori è anche percentualmente più bassa. Paradossalmente, le persone che fanno un percorso di danza tradizionale spesso si trovano un pochino a disagio nel pensare di entrare in contatto, cioè di usare la contact improvisation, mi è capitato di incontrarne, e perché hanno lavorato talmente tanto a sentire la propria, il proprio peso, la propria motricità, che sentono in maniera eccessiva l'influenza di un altro corpo. Dipende dalla disciplina, perché se mi parli di danzatori classici, sì, decisamente succede questo, però in linea di massima chi fa contemporaneo, un contemporaneo di quello proprio adesso, insomma, degli ultimi decenni, non ha di questi problemi. Però sì, cioè chi arriva magari dal jazz, dalla danza moderna, sicuramente questo accade. Ma sai cosa è successo, Anna? Che cosa? Che è già quasi finita la puntata. Ma dai, renditi conto. Guardato, cioè, il tempo. Ma veramente. Quindi wow. Adesso dovremmo dire in due minuti qualcosa di intelligente per chiudere la puntata. Diciamo qualcosa di sensato. Non lo so se il nostro ospite Silente Peloso vuole intervenire. No, Silente sta dormendo. Magari proprio. Prova a pestargli la coda, no, fa un ululato, no, non lo so. Va bene, un quadrupede del nostro ospite Silente. Ho visto che è passato anche Gozza, magari se anche lui vuole venire di chiederci qualcosa, non lo so. Perché poi mandiamo un brano e ci salutiamo. E cosa dobbiamo dire? Allora, aiutiamoci, abbiamo detto che è divertente, eh? Cosa devo fare? Sì. Allora, sì, innanzitutto Anna, no, vogliamo, siccome a me e alla Anna piace tanto questa disciplina, se non aveste capito, e non siamo le uniche, siamo uno sparuto gruppo di gente che qui a Bologna vuole fare contact, ok? L'ho detto, lo sto dicendo. Lo stai dicendo, sì. Quindi sono andata da Anna e gli ho detto, ma senti Anna, proviamo a fare qualcosa. E allora cosa succede? Succede che Anna ogni due settimane più o meno, perché ad esempio c'è una settimana che sa, cioè insomma... Sì, su tendenzialmente su www.coxspaziale.blogspot.com il link di Anna per date, approfondimenti e via dicendo. Comunque, lei tiene da tanti anni, ed è lì che l'ho conosciuta, un corso di contact improvisation al TPO. Quest'anno è di sabato dall'una alle tre, ogni due sabati in linea di principio. E dopo quel corso io ho detto, ma e se ti portassi i tuoi allievi e non solo in centro sulla T pedonale a fare un po' di pratica, così magari ci facciamo vedere e la gente che ci vede per strada dice, ma carina sta cosa, ma che cos'è? E allora te lo diciamo, ti facciamo provare, e insomma in 4 e 4 8 nel giro di 3 settimane diventiamo una moltitudine che Berlino ci invidia. Esatto, dico bene? Sì, perfetto. Ok, sì. Quindi il prossimo appuntamento non è domani ma la settimana dopo, dico bene? Dopo, sì. La prossima settimana lo annunceremo di nuovo, poi il prossimo coxo. E chi... Magari posso dirti già su cosa lavoreremo? Dai, sulla forza e sul sostegno. Quindi come capire come attivare i muscoli di sostegno per poterci permettere la forza e la resistenza per sostenere un corpo in dinamica o anche in statica. E quindi voi poi dalle 3:30, perché dobbiamo avere il tempo di cambiarci, metterci in panni civili e dal TPO arrivare alla T pedonale, penso che saremo più o meno in via Indipendenza 11 dalle 3:30 e ci troverete un gruppetto di persone in abiti civili che fa questa cosa che insomma sarà l'esercizio che Anna ci avrà dato da andare a diffondere. Diffondete nel mondo. Sì, dai. Vabbè, è così che si comincia, no? Sì. E poi per altre cose, se voleste approfondire o contattare il mondo della contact qui a Bologna, c'è una pagina su Facebook che si chiama C.bo. Poi c'è anche il sito di Contact, quello italiano, che è www.contatimpre. Sì, sì, però intanto per vediamo, vediamo di far gruppo qua a Bologna, okay. Così poi da lì andiamo in giro, perché ad esempio parte del nostro gruppo bolognese adesso è ad Arezzo, alla GEM, che esatto. organizzano lo Spazio Seme. Esatto. E io non ci sono perché guarda caso sono qua. Però stiamo parlando sempre di Contact. Sì, Contact Forever. E niente, qua cavoli, è veramente finita la puntata. Quindi cosa di? Ah sì, ho detto tutto. Abbiamo detto tutto. Sì. Ovviamente Anna, è stato divertentissimo averti qui, il tempo è volato e spero che tu ritornerai presto per parlarci, oltre che di Contact, anche delle tue altre attività. Certo. Volentieri. Magari anche con qualche altra mamma artista. Sì, certo, assolutamente sì. E qualche altro ospite silente. Esatto. Va bene, allora ciao. È stato ciao. Bello. Grazie Anna. Grazie a te. E grazie ospiti silenti. E beh, un ciao lo puoi anche dire. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Che non ci siano tracce. Intanto il peloso si è alzato. Lui, ecco, questa era la sua medaglietta. E per il resto, con il Coxo ci rivediamo venerdì prossimo. Ecco, grazie, grazie. Ci rivediamo venerdì prossimo, invece con la Contact Improvisation sabato prossimo, dall'una alle tre al TPO e poi dalle 3:30 alle 5:30 alla Tipe Donale. Ciao. Ciao a tutti.